Sabato 6 febbraio, le realtà che hanno lanciato la petizione Polarizziamoci contro il polo, salviamo le risaie di Altedo, daranno vita a un presidio proprio sui territori sui quali dovrebbe sorgere il nuovo hub della logistica. Questo progetto è costituito in realtà da due insediamenti, uno su Altedo e uno su San Pietro in Casale, che complessivamente interessano un'area di 100 ettari. Di questi 100 ettari, 73 ettari di suolo attualmente coltivato. L'intervento di cementificazione che è previsto determinerebbe quindi un irreversibile consumo di suolo attualmente fertile. Inoltre si parla in larga misura di zone ricoperte da un vincolo in quanto zone umide, quindi ci chiediamo quale sia concretamente il rischio idrogeologico che interessa queste aree, anche perché nel territorio comuni limitrofi nel passato recente sono stati interessati appunto da fenomeni di alluvioni e di allagamenti. Si parla di un progetto green e sostenibile, ma in realtà è un hub che sorge lontano dalla ferrovia e vicino a un casello autostradale, quindi prevedendo un trasporto delle merci esclusivamente su gomma. Chiaramente questo, sommato alla mobilità di lavoratrici e di lavoratori, non solo incrementerebbe il traffico, ma determinerebbe un aumento delle emissioni di CO2 con un peggioramento della qualità dell'aria. Quello che ci preme è chiaramente la tutela del paesaggio, sia per quanto riguarda la sua biodiversità, ma anche il suo valore storico. Ecco, ci sono diverse testimonianze proprio su questi terreni di quello che è stato il passato e l'attività agricola della pianura padana e nel dettaglio proprio qui rimane l'ultima testimonianza di quelle che sono le risaie storiche della città metropolitana di Bologna. L'altro punto fondamentale è la questione lavorativa, cioè vengono promessi 2000 posti di lavoro, ma anche su questo punto come coordinamento siamo abbastanza critici perché negli ultimi anni proprio le lotte dei sindacati di base e del coordinamento di migranti di Bologna su questo territorio ci hanno insegnato che il lavoro che offre la logistica è sostanzialmente un lavoro mal retribuito, un lavoro precario e un lavoro che non rispetta la dignità delle persone. Nelle ultime settimane hanno preso la parola tutte le realtà che vogliono questo progetto, dalla sindaca di Malalbergo ad APRC, che è la società di Lione che dovrebbe costruirlo. Voi cosa rispondete? In queste settimane le istituzioni e le realtà coinvolte nella realizzazione del progetto si sono esposte prendendo parola e definendo questo come un hub green che porterà un lavoro tutelato e addirittura aggiungendo che i terreni su cui dovrebbe sorgere sono attualmente dei terreni poco produttivi. Non basta dire che un'attività, un'azienda è green per renderla realmente sostenibile da un punto di vista ambientale, cioè contano i fatti. Se noi ci dobbiamo basare sui fatti, ecco che abbiamo un esempio proprio sul territorio che mette in luce l'evidenza di tutte quelle criticità che noi contestiamo anche al progetto dell'Hub di Altedo. Per quanto riguarda la produttività dei terreni, a noi ad oggi non risulta assolutamente che questi terreni non siano produttivi, ma anzi, proprio in questi territori si produce non solo un prodotto di qualità, ma si fa proprio un'attività di ricerca e di sviluppo sulle sementi. Quindi anche in questo caso sarebbe opportuno, quando si fanno delle dichiarazioni, poi sostantivarle, dargli corposità con dei dati effettivi. La mobilitazione di sabato è stata preceduta da una petizione online. Come sta andando? La petizione che abbiamo lanciato, Polarizziamoci contro il polo, salviamo le risaie di Altedo, è ancora attiva. Al momento ha raggiunto 3.000 firmatari, ma non ci vogliamo fermare qui, anzi il nostro obiettivo è molto più alto. Quindi l'invito è sicuramente quello a firmare e a far girare il più possibile la petizione, anche perché quello che sta succedendo nei comuni di Altedo e di San Pietro in Casale è previsto in altri comuni della città metropolitana e in altri luoghi dell'Emilia-Romagna. Sabato dunque sarete proprio in loco, come si svolgerà la manifestazione? Il presidio del 6 sarà una bella occasione per le realtà che hanno lanciato la petizione di confrontarsi direttamente sui luoghi che dovrebbero interessare questo nuovo centro logistico. Il lavoro che abbiamo svolto finora è avvenuto principalmente online, ma ci sembrava doveroso essere presenti anche sul territorio territorio, seppur in maniera simbolica, appunto dando questo segnale. Siamo realtà con sensibilità diverse, ma siamo unite da un intento comune, che è la salvaguardia, la tutela di questi posti e delle persone che ci vivono. Quindi il presidio ci darà anche l'occasione di portare ciascuno le proprie stanze, di approfondirle e di condividerle. Inoltre, considerato che l'età media delle persone che abitano anche in questi comuni non è così bassa, ecco, ci sembrava doveroso non utilizzare solo risorse digitali per portare avanti la lotta, ma anche avere un confronto diretto con chi questi luoghi li vive tutti i giorni.